Il gastronauta di Davide Paolini. E mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e famo, sanno tutto quanto. E invece ci aiuta, ci abbuffano i caffè. Buona giornata e buon caffè a tutti. Spero che tutti abbiate bevuto un ottimo caffè, o con la moca, con la napoletana, o con l'espresso, un'infusione, e purtroppo alcuni anche con le cialde e le capsule. Avrete già capito dall'intonazione della mia voce che io, quando arrivo alle cialde e le capsule, insomma, sono abbastanza perplesso, e parleremo di caffè. Tante maniere di preparare un caffè, ma c'è una maniera che più di ogni altra rende appunto questa fragranza, questo sapore, questo odore di caffè che esprime questa canzone di Pino Daniele, che mi riporta a Napoli, mi riporta alla napoletana. E allora cominciamo a parlare di questo argomento. Numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Esprimete anche voi la vostra opinione, cari radioascoltatori. Noi cominciamo un viaggio con anche alcuni esperti per capire, per andare a fondo, ai fondi del caffè, come si dice, per andare. Cominciamo da Marcello Arcangeli, responsabile training center della Lavazza. Buongiorno Arcangeli. Ciao, buongiorno Davide, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ecco, la cosa che mi viene subito così di chiedere è questa: ma voi, quando voi fate sperimentazione, fate degustazione, insegnate anche appunto, certo, ai baristi, ma fate, diciamo, delle comparazioni, come si dice, delle verticali tra espresso, infusione, moca, napoletana, cialda, capsule e via di seguito? Ma certo che sì, durante, noi abbiamo anche proprio dei corsi, dei laboratori del gusto, dove in effetti ci divertiamo a prendere una stessa miscela e a vedere come si comporta da un punto di vista proprio in tazza, da un punto di vista organolettico, fra principalmente i tre sistemi di estrazione tipicamente italiane, che sono l'espresso, la moca ed esempio la napoletana, che consideriamo quasi un filtro all'italiana. È chiaro che rispetto al tema della trasmissione, alla tua domanda, qual è il migliore? Dal nostro punto di vista di Lavazza non c'è un caffè migliore rispetto ad un altro, sono proprio tecnologie di estrazione diverse, quindi con profili e caratteristiche in tazza diverse. Se tu chiedi qual è che dà, come dire, il prodotto più estratto, più concentrato, è l'espresso, perché quando facciamo un espresso in tazza estraiamo circa il 25% delle sostanze estratte, la pressione è molto elevata, cioè stiamo parlando di 9 atmosfere, rispetto a un caffè della moca dove la pressione di estrazione è a 0,4-0,6 atmosfere, quindi non c'è la forza estrattiva per emulsionare gli oli del caffè e fare la crema, ma comunque sono proprio profili di tazza. Ecco, diciamo allora, cominciamo infatti a entrare così in una, certo, serie che possono essere le conclusioni. Ci sono degli stili di caffè, intendiamo per stili di consumo, quindi possiamo identificare su questo. È evidente che chi è in ufficio non può uscire, il suo stile non può essere altro che la macchinetta. Comunque rimani con noi. Sentiamo Antonio da Taranto, addirittura già sono arrivate tante telefonate. Antonio da Taranto, buongiorno. Buongiorno Paolini. Volevo sapere, io sono un grande estimatore del caffè, però sono estimatore del caffè e lo faccio volentieri a casa con la macchinetta tradizionale, con l'espresso. Non riesco più a sentire l'aroma, cioè prima mi ricordo si sentiva per la strada l'aroma del caffè di qualche casa che usciva dalle case, che adesso l'aroma proprio sembra inesistente qua, seppure ho provato parecchie tipologie di caffè. Volevo sapere il problema. Il problema è molto serio. Arcangeli, possiamo dare una risposta? Certo, se intuisco quello che dice il radioascoltatore, è la differenza proprio fra l'espresso e la caffettiera moca. La caffettiera Moka ha questa estrazione dell'acqua dal basso verso l'alto e sprigiona durante appunto la fase di preparazione una serie di aromi in tutto l'ambiente che sono un po' caratteristici, no, di questo sistema di preparazione. Al contrario, l'espresso invece, dove la polvere di caffè si mette in questa coppetta che viene chiusa ermeticamente nel gruppo della macchina, ecco, tutte le parti aromatiche le abbiamo in tazzina sotto la crema, però in effetti quando prepariamo un espresso in casa non si sprigiona quell'aroma a cui fa riferimento l'amico. Forse non si forma la crema, è difficile che si forma la crema in una... Non si forma la crema, in effetti per sentire tutta quella parte aromatica, soprattutto al naso, quando si beve un espresso, il primo gesto che bisogna fare è con il cucchiaino spostare la crema che è una cappa, è un coperchio, certo. E sentire tutta la parte aromatica più volatile. Bene, grazie a Marcello Arcangeli. Sentiamo Enrico dalla provincia di Venezia. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Niente, volevo spezzare una lancia a favore dei distributori automatici di caffè. Ovviamente non li paragono all'espresso o alla moka, però una cosa che forse non tutti sanno è che questi distributori, o la maggior parte, ogni volta che fanno il caffè macinano la misura del caffè necessario. Quindi, beh, non diciamo tutti, Enrico, non generalizziamo, ce ne sono alcuni che macinano, ce ne sono altri che invece diciamo che non è già tutto macinato, già tutto pronto, quindi facciamo dei distinguo. Non tutti, quando si sente il rumore, sì. Non è soltanto l'acqua che bolle, ma è proprio sì, certo, il caffè macinato, e questo non c'è neanche al bar. Diciamo. Senta, ma lei vende distributori automatici? No, ho lavorato, ecco. Tutt'altro, ho lavorato in passato come dipendente, però mi spiegarono questa cosa e in effetti avevo notato, in effetti la qualità poi del caffè dipende più che altro dalla qualità dei chicchi che vengono messi. Beh, però essendo macinati ogni volta... Come dicevo, facciamo un distinguo, ce ne sono certo. Alcuni che macinano e altri no. Grazie Enrico. Si parlava prima di profumo, ecco, io con questa canzone lo sento il profumo di Napoli. Devo dire che c'è una città in Italia dove ho respirato proprio camminando nel centro l'odore del caffè dei bar, ed è Lecce, e lì veramente ho sentito questo odore. Ma torniamo ai nostri radioascoltatori, che vedo che stanno telefonando veramente in tanti. Bene, il caffè è sicuramente una delle glorie con la pasta e la pizza italiana. Giovanni da Milano, buongiorno Giovanni. Buongiorno, eccomi qua. Prego. Comunque il caffè più buono vi spiego io qual è. Ecco, ce lo dica. Fatemi bene a sentire, il caffè più buono è quello che tu incominci a bere qualche minuto prima di incominciare a prepararlo, quando apri la scatola, quando tiri fuori la macchinetta, quando togli il coperchio e comincia quell'esalazione a inebriarti. E tu cominci a gustarti il caffè prima ancora di potertelo bere. Quando cominci a sentire la macchina che gorgoglia, glu glu glu glu glu glu, dopo lo versi nella tazzina, arriva il massimo. Questo è il top. Il caffè con la crema che ha formato è una cosa che finalmente riesce a concludere tutta l'esaltazione dei gusti. Bene Giovanni, la ringraziamo di questa declamazione, ci viene voglia proprio di un caffè. Ma sentiamo anche Giuseppe, vediamo da Giuseppe da Napoli, dopo Tazzulella e caffè di Pino Daniele non posso non far intervenire un radioascoltatore napoletano. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno carissimi, saluti a tutti i radioascoltatori. C'ho un bar di proprietà da Napoli e ho la mia esperienza per poter dare un consiglio eventualmente a qualcuno che alla fine ne possa cogliere il significato e migliorare l'operazione di fare un buon caffè. E alla fine dico questo: dopo aver avuto la buona macchina express, tutte le cose in ordine, un buon caffè e tutto, se alla fine l'operatore non sa regolare bene la macchina e poi deve dare la giusta pressione nel pressare il caffè in base alla macina che è stata regolata, perché a volte la macina cambia in quanto le temperature esterne fanno in modo che si macini o più stretto o più largo. quello che è importante è che l'operatore faccia scorrere il caffè a filo di rubinetto, cioè non troppo veloce, non troppo lento e né a gocce, perché se a gocce lo brucia, se lo fa scendere velocemente non lo sfrutta bene il caffè, se invece scende a filo filo di rubinetto, allora avrà un ottimo caffè. Giuseppe, la devo interrompere perché sennò lei ha dato una lezione sicuramente di come si fa il caffè, e credo che lei appunto sostenga che è l'operatore e non è l'acqua di Napoli, quindi è l'operatore di Napoli. Credo che veramente sia questa una delle favole da smentire, che è sempre la mano dell'uomo più che sicuramente, perché si dice sempre a Napoli l'acqua, sì, sicuramente incedirà l'acqua, ma l'operatore è la cosa più importante. Ricordo il numero verde 800 24 00 24, e ora sentiamo Attilio Bottala, che è Caffè Giordano, una piccola torrefazione di Ivrea, e a lui voglio chiedere, innanzitutto buongiorno Bottala. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Ecco, io volevo chiedere, ma secondo te, cioè, diciamo tutti i vari modi di fare caffè, espresso, infusione, moka, è importante usare delle miscele diverse l'uno dall'altro? Cioè c'è un qualcosa che esprime il meglio, si esprime meglio con la napoletana o con l'espresso o con l'infusione? Ma innanzitutto voglio dire che sono d'accordo con quanto affermato prima da Marcello, che ci sono diversi stili diversi per fare il caffè, ma l'eleganza e la finezza si può ottenere solo con un'estrazione fatta con il sistema dell'espresso. Poi, indubbiamente, venendo alla tua domanda, se io utilizzo dei caffè che hanno un'alta ricchezza aromatica, quindi sono ricchi di oli, sono ricchi di sostanze aromatiche e queste sostanze sono anche fini, come ad esempio nelle pure origini di caffè arabica, quali che provenienze, quale Santo Domingo, Guatemala, caffè indiani anche, o i miei preferiti che sono quelli che hanno provenienza africana, allora lì otteniamo il massimo sicuramente in tutti i diversi sistemi di estrazione, quindi sia nella moka che nell'estrazione espresso, che come ti ho detto è quella che secondo me dona una finezza particolare alla bevanda. Bene, sentiamo Francesco da Latina, un radioascoltatore. Buongiorno Francesco. Sì, buongiorno a tutti. Volevo parlare insomma questo mito, a mio avviso, della moka a casa come tradizione. Possiamo impegnarci come vogliamo, ma io distribuisco caffè, vendo caffè da quando avevo 18 anni, ora ne ho 37. E, secondo me la cialda, la capsula a casa ormai hanno raggiunto dei livelli di qualità veramente importanti. Si pensa che il caffè macinato e messo sotto azoto conserva le proprietà e degli aromi eccezionali, senza invidiare nulla al bar, per cui quando si parla della moka, intesa come quella della nonna che ce lo preparava, dove si sentono gli odori con il barattolo, tutte quelle belle cose sono superate, insomma. Ma guardi, l'acqua Francesco, nera nella tazza, per cui secondo me sono solo ricordi ancorati psicologicamente dei bei momenti che ci ricordiamo. Io la posso smentire, perché io anche stamattina mi sono fatto il caffè con la moka e tutte le mattine me lo faccio con la moka, e sentire l'odore e innanzitutto sentire il gorgoglio per me è un modo molto bello di iniziare la mattina. Invece avere una macchina che non parla, che sta zitta, che non mi dice niente, che è lì immobile, veramente mi rattristisce un po'. Comunque questo è un pensiero mio personale e sicuramente non voglio trasmetterlo all'altro. Ma sentiamo una grande esperta, Nadia Rossi, buongiorno, del giornalista del Bar Giornale, che si occupa proprio da anni sul discorso del appunto caffè, dei vari modi di, diciamo, dei vari anche format che ci sono in giro per il mondo, di bar o di altro. Buongiorno Nadia. Buongiorno a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Senti, questo radioascoltatore diceva che la moka sparisce, beh, insomma, può anche essere, rimarremo in pochi, ma volevo chiederti, diciamo che nel caffè c'è stata una grande trasformazione, cioè diciamo che oggi con cialde e capsule veramente stiamo assistendo a una rivoluzione come con i cellulari, tu cosa ne pensi? No, senza dubbio è così, c'è stata davvero una trasformazione incredibile, se pensi alle sue origini, semplicemente questo caffè preso e bollito, a oggi apri questa confezione, inserisci la cialda o la capsula e hai il tuo espresso. Senz'altro ogni passaggio precedente, compreso l'espresso, ha sempre avuto secondo me un cuore che è un'attenzione, una percezione anche sensoriale che secondo me manca in quelle che sono gli ultimi strumenti, la cialde e la capsula. Quindi l'aprire, il sentire l'aroma del caffè, il curartelo come vuoi tu, perché puoi farlo tranquillamente con la moca, con l'espresso, con tanti altri sistemi di estrazione, ecco, si perde in questi ultimi. Bene, continuiamo. Allora sentiamo anche, è veramente un bombardamento di sms e di telefonate. Sentiamo Daniele da Pesaro. Buongiorno Daniele. Salve Davide, sono Daniele da Pesaro, saluto sì. A tutti. Volevo solo dire e scorrere la mia esperienza. Io sto usando un caffè da molto tempo di un ragazzo che sta a Cattolica, c'è una piccola torrefazione e si va a scegliere il caffè a Trieste, si guarda i chicchi, se li assaggia, li tosta quando il tempo è quello giusto, quindi come tutte le cose, come la pasta è spiegata in modo naturale o in modo industriale, se uno sceglie, se uno va a vedere, se uno perde il tempo, se uno cerca, trova anche il caffè, quando lo porto a casa, c'è una casa di due piani, il profumo si sente per una settimana di una bustina da 2,5 litri, di un sacchettino da 2,5 litri. Bene, grazie Daniele per la tua testimonianza. Sentiamo Luca dalla provincia di Perugia. Buongiorno Luca. Buongiorno, volevo dire questo. Allora, le macchine del caffè le troviamo negli uffici, no? Servono per fondamentalmente per svegliarci un pochino, giusto? Sì. Allora, è stato fatto mai un'analisi chimica dei vari caffè? Cioè, è sicuro che non vengano additivati con qualche sostanza che poi a noi risulta conosciuta oppure anche... Abbiamo un torrefattore con noi, glielo chiediamo subito, Attilio Bottala. Fate le analisi chimiche per vedere se o aggiungete delle sostanze? Ma aggiungere assolutamente no, è vietato per legge, perlomeno in quello che noi acquistiamo come caffè, sia macinato che in grani. Sicuramente ci possono essere origini diverse o, come diceva l'ascoltatore prima, passioni diverse nel produrre il caffè, nel lavorarlo, nel tostarlo. E questo secondo me è importantissimo, come prima accennavi tu nella moca. Secondo me la moca a me ricorda moltissimo la mia infanzia, quindi stimola tutta una serie di ricordi che sono di quando ero piccolo. Oggi purtroppo, essendo appassionato del caffè espresso, io sono obbligato ad uscire di casa per prendere la mia prima tazzina di caffè, perché assolutamente non evito di farmela in casa, evito di quel rito della capsula di plastica e di quella macchina che non parla, non comunica e fa tutto da sola. Quindi se va al bar, insomma, tu dici. Vabbè, l'espresso sicuramente rimane, cioè è il nostro emblema. Ma Nadia Rossi, quale sarà la prossima frontiera del caffè secondo te? Ci sarà ancora evoluzione oltre che le cialde e le capsule? Si andrà ancora oltre? La ricerca è sempre comunque aperta. Non ho sentore di ulteriori novità. Fino ad oggi la ricerca è sempre andata verso un sistema che riuscisse a estrarre di più, perché la pressione che per esempio abbiamo raggiunto con la macchina espresso, quelle 9 atmosfere, fanno sì che appunto si riesca a estrarre tutto il gusto, l'aroma, i grassi che formano quella bella crema in superficie. Oltre, bisogna vedere, pressioni maggiori ci possono avere più che altro una schiuma in superficie rispetto che una crema. Secondo me l'espresso italiano oggi come oggi è davvero il top, e se fosse possibile direi non andiamo oltre, godiamoci quella meraviglia e impariamo a scoprirla a fondo, perché spesso non sappiamo avvicinarci in modo corretto alla tazzina. Eccoci di nuovo a parlare di caffè, di espresso, di moca, di napoletana. Devo dire che sono arrivate una serie, tantissimi sms, ma ne colgo un paio. Appunto, abbiamo parlato tanto di moca anch'io, e c'è un radioascoltatore che dice: guarda che non è più come un tempo, l'odore del caffè di tanti anni fa non è più così intenso, l'odore del caffè di oggi è insipido. Ma chissà, se dipende, forse dipende dalla miscela che usa questo signore. Però c'è un'altra domanda interessante: il caffè espresso espresso lungo ha più caffeina di un caffè espresso normale e di uno ristretto? Bene, buongiorno a Moreno Faina, direttore dell'Università del Caffè di Illy Caffè. A lui rivolgo questa domanda. Faina, allora, buongiorno. Buongiorno. Allora, il caffè espresso ha più caffeina, quello lungo, di uno normale? Siamo sull'estrazione, allora, qui, certamente. Questa è una bella occasione per poter mettere, per dare un po' di chiarezza su questo punto, perché molte volte il consumatore chiede un caffè lungo nella speranza che contenga meno sostanze stimolanti. In effetti l'estrazione lunga tende a far una estrazione maggiore di caffeina. La caffeina è molto solubile e l'estrazione è favorita dall'acqua calda e da un lungo processo di estrazione. Per cui a parità di dose un caffè regolare rispetto a un caffè lungo contiene una bella percentuale inferiore di caffeina. Quindi... è anche vero che un caffè ristretto contiene meno caffeina di un caffè regolare. Quindi diciamo che la tendenza sudista di avere un caffè molto, molto ristretto è molto più sana di altre abitudini, specialmente al nord, di magari di non amare il caffè ristretto. Quindi già questa è un po'... Decisamente sì, anche perché questo consente al consumatore che apprezza e ama il caffè di poter ripetere più frequentemente il rito del caffè, quindi prenderne qualcuno in più senza avere un carico eccessivo di caffeina. Certo. Sentiamo Giancarlo da Campobasso. Buongiorno Giancarlo. Buongiorno Paolini, complimentissimi. Senta, io penso che il caffè più buono sia quello che si beve al bar, sì. Però a due condizioni secondo me. Innanzitutto che il contenitore della polvere di caffè del macinino sia piena e la seconda condizione è che lo scatto sia completo in modo che nel braccetto vada esattamente la dose prevista. Lei lo sa benissimo, Paolini, che in un'altissima percentuale, se no rischio di fare il polemico, nei bar italiani non succede più così. A lei lo faranno buonissimo, ai dirigenti. Ma guarda che non sono mica conosciuto in tutti i bar d'Italia, quindi no, io invece penso che lei appunto sia una persona notissima. No, guarda, io ho fatto il corso proprio dove insegna Faina per imparare, per conoscere sia il caffè che il cappuccino, quindi un po' diciamo che me la so cavare. Ma io voglio chiedere a Mario Pascucci. Buongiorno Mario, del Caffè Pascucci, Caffè Pascucci di Montecerignone in provincia di Pesaro Urbino. Ma vorrei chiederti, cioè, quanti grammi di caffè, di miscela devono andare in un caffè espresso? Quante ne mette il barista? Ma guarda, secondo la regola della tradizione italiana non devono essere più di 7 grammi e mezzo. Al sud Italia però se ne usano anche di più, perché si usano le macchine a leva, le macchine a levona, che normalmente utilizzano anche 8 grammi, 9 grammi di caffè, e c'è una nuova tendenza adesso, che è quella più internazionale, che viene dagli Stati Uniti piuttosto che dall'Asia, dai consumi emergenti, di mettere tanti grammi di caffè quando il caffè è buono, perché viene interpretato come se il caffè è buono perché non deve esserci, no? Quindi diciamo la regola italiana dell'espresso regolare ha determinate regole, però il mondo sta andando in una direzione diversa. Quindi Napoli molto sì. Più ricca, insomma, diciamo così, molto più ricca. Cioè molto più ricca. Sentiamo Gaetano dalla provincia di Milano. Buongiorno Gaetano. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. No, niente, volevo permettermi di, rispetto ai tre sistemi di estrazione che sono stati citati, no? Io ne ho trovato uno, diciamo, che viene derivato da una moca, visitando la fiera dell'artigianato di Milano che è stata di recente. Praticamente un artigiano siciliano che fa questa caffettiera, che non so se posso dire il nome perché magari... Prego, se è un artigiano non è che facciamo concorrenza ai grandi produttori. Sì, si chiama Camira, sì. Ed è un dispositivo che praticamente io non ci credevo, ma effettivamente io l'ho comprata, ce l'ho a casa, che fa uscire il caffè con la cremina a casa, cioè lei sa bene che con la sì, moca certo. E non esce nessuna crema, praticamente caffè puro liquido, no? Certo. E invece con questo dispositivo incredibile fa la sua bella cremina, lei... Ma com'è? È una specie di moca, com'è questa macchina? è praticamente un dispositivo che deriva dalla moca, nel senso che c'ha un corpo scaldante, no? Sì. Poi c'ha praticamente due tubi che si alzano in verticale, uno che serve per caricare l'acqua, no? C'ha uno scodellino che con una leva che apre e chiude, no? Dove si carica l'acqua, e dall'altro esce appunto il vapore che però dal basso va verso l'alto e poi con una curva a U torna verso la... È difficile da spiegare. Abbiamo più o meno capito, però... ma sentiamo Moreno Faina se conosce questa particolare macchina. Beh, non conosco questa macchina in particolare, conosco altre prove simili per poter consentire a una pseudomoca di estrarre la famosa crema. E l'obiettivo è quello di aumentare un po' la pressione, perché la crema è frutto di un'emulsione e quindi di una elevata pressione. La caratterizzazione del caffè espresso della macchina professionale è perché la pressione è particolarmente alta, come nessun altro sistema. Quindi sono tutte tecniche che tendono un po' a ispirarsi a questa, senza mai raggiungerle, e soprattutto con il rischio di non avere un controllo della temperatura e della pressione adeguata per evitare poi problemi sul prodotto finale. Bene, io ora abbiamo parlato di moca, abbiamo parlato di espresso, abbiamo parlato di tanti sistemi, non abbiamo parlato di uno, che è quello dell'infusione. E allora io un giorno, diciamo, mi sono accostato a un signore che stava facendo degustare il proprio caffè, la propria miscela, e mi ha detto: se lei la vuole gustare al meglio, però io gliela devo dare sotto forma di infusione. Buongiorno a Massimo Bonini del Caffè Lady di San Secondo Parmense. Bonini, allora, secondo lei l'infusione esprime il meglio? Buongiorno Davide, buongiorno, sì. Buongiorno a tutti i vostri ascoltatori. L'infusione esprime al meglio. In realtà il concetto è molto semplice ed è anche efficace per l'immediatezza con cui viene concepito. Avete parlato di espressi, quindi parliamo di infusione ridottissima, e lasciamo polvere di caffè, acqua calda in infusione per 25-30 secondi. Contro invece un'infusione che può arrivare fino a 6 minuti, quella che poi abbiamo assaggiato insieme quel giorno, appunto, che tu ricordavi. Sì. Questo ne esalta in maniera vertiginosa le caratteristiche aromatiche. Ecco, ma la stessa miscela usata di infusione e come caffè espresso esprime due mondi diversi dal punto di vista del profumo, dal punto di vista del sapore, è così? Assolutamente sì. In realtà però non dimentichiamo che concettualmente molte volte diciamo che ci sono miscele dedicate per l'infusione, miscele dedicate... Ecco, ecco. E invece questa per me è una grande fesseria. Ecco, benissimo. In realtà è un prodotto che messo in acqua esprime delle caratteristiche. Più glielo lasciamo, più ne esprime. E quindi l'importante è la materia prima, cioè certo. Avere una cultura prevaricante sulla materia prima, sapere che cosa ci mette in infusione. Pascucci, tu sei d'accordo che, diciamo, la miscela deve essere la stessa? Non ci devono essere miscele per la moca, per l'infusione e via, e per l'espresso? Ma no, perché, cioè, chiaramente quando un caffè è buono dappertutto, certo. Quando un caffè è cattivo dappertutto. Però ci sono dei caffè che sono favolosi quando sono fatti in percolazione, quindi col sistema dell'infusione, e ci sono dei caffè che diventano imbevibili quando sono fatti in quel modo, ma sono ancora bevibili quando sono fatti con l'espresso. E questo qui è, secondo me, proprio un elemento che diciamo confonde un po' il consumatore italiano, perché il consumatore italiano, essendo limitato tra virgolette al consumo esclusivo di espresso o di moca, ha un'interpretazione del caffè che ha certi limiti, mentre il consumatore anglosassone che consuma i caffè filtrati riesce a interpretare di più i gusti e l'eccellenza aromatica di caffè, di specialty coffee molto importanti. Quindi credo che questo sia veramente un limite per noi, non poter confrontare e non confrontarci su tanti gusti, su tante tipologie di caffè e su tanti sistemi di estrazione. Ecco, di nuovo a parlare, per chiudere anche, di caffè. Ma chiudiamo, abbiamo con noi una degustatrice di caffè che mi hanno detto veramente una delle migliori che abbiamo in Italia. Buongiorno a Cinzia Linardi della Chicchera Caffè di Mori, in provincia di Trento. Buongiorno a te Davide e a tutti gli ascoltatori. Cinzia, io volevo chiedere questo, ma come si diventa degustatore di caffè? Ah, bella domanda. Allora, notare che la mia mamma per 37 anni ha svolto lavoro proprio di caffetteria con due caffetterie. quindi per cui io non avevo mai pensato ad assaggiare il caffè, cioè lo si beveva per bere semplicemente un caffè. Poi in questi anni, tra corsi di formazione, mi sono un po' più incuriosita e tanto appassionata da approfondire l'argomento. E quindi sei arrivata, mi dicono che veramente sai distinguere, perché guarda, ti leggo già una domanda che secondo me dovresti rispondere: perché in più del 50% dei bar il caffè sa solo di bruciato? Aia, bella domanda compromettente questa. Allora, perché in primis si è parlato di caffè, parliamo anche un po' di pulizia della macchina. Purtroppo ti dobbiamo richiamare perché si sente malissimo, peccato. Richiamate Cinzia. Beh, sentiamo, abbiamo Gino Tortorella. Buongiorno Gino. Cino Tortorella, buongiorno Cino. Buongiorno, ciao, come stai? Bene, bene. niente, sentendo parlare di caffè, non potevo non ricordare quella scena bellissima di Edoardo De Filippo in Questi fantasmi, quando lui insegna al suo coinquilino a fare il caffè. È una scena bellissima. E poi, perdonami, ma ho ricordato anche quella battuta tra due romani, che uno dice: no, ma guarda che se fai il caffè così perde la Roma. E dice: a me che me frega, io sono da Lazio. Bene, grazie Cino, grazie. Ma sentiamo Luisa da Milano. Buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a lei, complimenti per tutto. Mi dica. Un piccolo consiglio, avuto in Brasile 40 anni fa, va tenuto in frigo il caffè, perché mantiene molto meglio l'aroma ed è più morbido. Se è tenuto fuori in cucina normale, nei cassetti, normalmente, è asciutto. È un piccolo consiglio che però si può provare. Bene, io lo uso, ma sentiamo Leonardo Lelli, torrefattore in Bologna, se concorda su questo. Buongiorno Leonardo. Buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti. Sì, beh, sicuramente la conservazione del caffè è bene al fresco, quindi in frigo, soprattutto perché il caffè, essendo ricco di parte grasse, con l'aria si ossidano e quindi potrebbe poi andare a inficiare quelle che sono le sue proprietà organolettiche. Quindi sicuramente sono d'accordo sul fatto di tenerlo al fresco. Beh, abbiamo ripescato, credo, Cinzia Linardi, che si sentiva meglio. Allora Cinzia, buongiorno di nuovo, ci sentiamo. Buongiorno. Allora, perché il più del 50% dei bar il caffè sta solo di bruciato? Allora, si basti pensare che un bar può avere una miscela d'eccellenza. Se poi alla base di tutto manca una buona professionalità e una buona, soprattutto, pulizia della macchina, questo è il 50% che manca. Io posso avere la tazza migliore al mondo, se poi comunque non so mantenere una pulizia della macchina, cioè semplicemente la pulizia, pulire con l'acqua calda i portafiltri tutte le sere o in base all'utilizzo che ho giornaliero, e il caffè, l'estrazione di caffè intatto mi risulterà sporca, oppure, come dice lei, il troppo tostato. Ecco, e Leonardo Lelli, di nuovo a te, volevo chiederti questo: si vede nei bar molte volte la tazzina che dalla parte sinistra o destra si vedono tutti i puntini, sicuramente della miscela, di quello che è stato miscelato, dei residui. Da che cosa dipende questo? Pulizia. Pulizia dei gruppi, dei portafiltri, dei filtri. Torniamo a uno degli aspetti di cui si è parlato durante la corsa della trasmissione, della professionalità. L'espresso è il metodo più tecnico in assoluto per fare il caffè. Più tecnico vuol dire che richiede una grande professionalità, una grande attenzione. Se ogni passaggio dimentichiamo, tralasciamo qualche cosa, poi andiamo a inficiare quello che è il prodotto finale, tra cui anche appunto una delle cose fondamentali è la pulizia. Ma volevo, visto che siamo in fine di trasmissione, mi sembra, volevo trarre un attimo una conclusione. Tu sai che io viaggio per le piantagioni del mondo a ricercare i caffè migliori e posso sicuramente affermare che, così come non esiste il caffè migliore in assoluto, il più buono in assoluto, esiste una qualità che è indiscutibile, che deriva dal terreno, le specie, le varietà, i processi di coltivazione, raccolte e così via, fino ad arrivare alla tostatura. Ma così come non esiste il caffè migliore in assoluto, dicevo, non esiste il metodo migliore in assoluto. Metodo e caffè sono due cose che secondo me vanno di pari passo, ossia io scelgo, questa è cultura del caffè secondo me, scelgo il metodo di estrazione in base al tipo di metodo di estrazione sottolinea una parte aromatica, fermo restando, come è stato detto, che l'espresso è il più concentrato di tutti, quindi esprime al meglio ciò che è contenuto dal punto di vista organolettico nel caffè. Però ecco, cultura del caffè secondo me, certo, c'è cosa voglio dal prodotto che vado a bere in questo momento. Sentiamo Stefano da Torino, buongiorno Stefano. Buongiorno Paolini, buona giornata a tutti. Mi dica. Allora, io volevo fare una considerazione su un aspetto che mi sembra fino adesso non è stato toccato, ed è quello della tazzina. Cioè, io come appassionato di caffè ho notato e ho letto un po', ho letto che la tazzina molto spessa, più che altro, non è serve perché non si rompa. In effetti nel bar la tazzina deve essere utilizzata molte volte, quindi la tazzina sottile rischierebbe di rompersi. Nella realtà io vado a bere il caffè nella tazzina sottile, possibilmente un po' grande, in modo tale che bevendo l'aroma abbia modo di essere convogliato sul naso. Guardi, sentiamo Cinzia cosa ne pensa, perché lei è abituata appunto a degustare sulla tazzina, perché è un fatto importante questo. Cinzia. Allora, io sono abituata ad utilizzare delle tazzine rigorosamente spesse in ceramica, soprattutto un po' coniche, cioè che me lo tengono un po' occluso l'erogazione del caffè, per il semplice fatto che almeno non mi si apre proprio del tutto la crema al momento, perché la crema sappiamo che è elastica, di conseguenza la trattiene un attimo di più rispetto a una tazzina più larga. Lo spessore della tazza più largo per il semplice fatto che mantiene di più il caldo. Si basti pensare al cliente quando viene in caffetteria e mi chiede il caffè rigorosamente nel bicchierino di vetro. Non c'è problema, lo si fa nel bicchierino di vetro, ma nel bicchierino di vetro il liquido, la nostra bevanda nera diventa subito raffreddata. Si raffredda immediatamente. Certo, io confesso di berlo nel vetro perché così mi aggrada di più, ma mi rendo conto di questa differenza e ne sono conscio, però chissà perché mi piace berlo nel vetro, quindi credo che anche qui sia un fatto di gusto. Ma sentiamo Roberto da Milano, buongiorno Roberto. Buongiorno, senta, prima di tutto non vorrei scandalizzarvi per quello che sto per dire. Roberto, veloce perché siamo quasi in fondo, grazie. Sì, io utilizzo da un po' di tempo il caffè solubile, sì. Volevo sentire qualche cosa da parte vostra, un parere. Sentiamo Leonardo Lelli, abbiamo un esperto, quindi no, Leonardo. No, il caffè solubile e capsule non sono proprio nelle mie corde, per me il caffè va tostato, è stato detto anche nella cosa della trasmissione, c'è tutto un rituale nella preparazione del caffè, qualsiasi metodo tu scelga, che fa parte della tazza di caffè, quindi prepararlo, curarlo, annusarlo mentre lo prepari, il solubile, le capsule non fanno parte del caffè. Ma devo dire che mi pareva che non arrivasse un SMS su Starbucks, è arrivato, me lo aspettavo. Beh, è evidente che Starbucks è il grande, come posso dire, il grande pericolo alle spalle. Lelli, cosa ne pensi? No, pericolo no, sicuramente Starbucks è un fenomeno a livello mondiale che ha permesso di divulgare la cultura della caffetteria, adesso non prendetelo con il dovuto peso questa cosa, però è chiaro che l'ha diffuso in tutto il mondo. La qualità è un'altra cosa, quindi la professionalità è un'altra cosa, così come c'è una caffetteria di massa come può essere Starbucks, bisognerebbe andare a cercare anche la caffetteria dove c'è la professionalità, quindi dove ci sono strumenti professionali e c'è un'offerta di prodotti differenziata. Bene, grazie a Cinzia e tanti auguri per i prossimi, diciamo, campionati a Cinzia Linardi e grazie a Leonardo Lelli. Bene, devo dire che veramente sono arrivate tantissime SMS, me lo aspettavo, perché sicuramente il caffè, come dicevo, pizza e pasta sono i nostri simboli. Sono arrivati e tutti parlano del barista come confessore, come psicologo, quindi come momento di diciamo incontro e di convivialità. Però dico, convivialità sul caffè in Italia ce n'è veramente poco, perché si beve al volo e poi si corre. Credo che quello sia il vero guaio, bisognerebbe berlo lentamente. Ma io ringrazio in redazione Anita Panizza e Giorgio De Luca, buongiorno e un buon weekend a tutti.